24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano anche oggi la crisi greca, che sembra avviarsi verso una soluzione dopo l'accordo raggiunto ad Atene tra i leader dei principali partiti ellenici. La questione era sul tavolo dell'Eurogruppo convocato per giovedì sera. Intanto il presidente della BCE Draghi lascia invariati i tassi di interesse e non chiude completamente la porta a un intervento indiretto della stessa BCE nella crisi ellenica. Oggi vi parleremo anche di quote rosa in Francia e andremo a Berlino per l'apertura del Festival del Cinema. In apertura dunque la cruciale riunione dell'Eurogruppo convocata d'urgenza per fare il punto sulla crisi greca. Arrivando al vertice il commissario europeo all'economia Olli Rehn ha affermato che c'è un accordo di partenza, ma tocca ora alla Grecia convincere i suoi partner sulla credibilità delle riforme. Il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha affermato: non credo ci sarà una decisione finale sulla Grecia stasera, abbiamo molti elementi di cui discutere e questo non è un disastro. In precedenza il portavoce del primo ministro ellenico Lucas Papademos aveva annunciato che i leader dei partiti politici avevano trovato un accordo sulle riforme economiche. Il premier e i leader dei tre schieramenti di governo avevano raggiunto un'intesa su come trovare i 300 milioni mancanti al piano di austerity dopo il no al taglio del 15% sulle pensioni. I 300 milioni dovrebbero arrivare da tagli alla spesa ed altri settori. Intanto i due principali sindacati greci, la DEDI del settore pubblico e il GSE privato, hanno proclamato uno sciopero generale di 48 ore a partire da venerdì per protestare contro le misure di austerità chieste da Unione Europea ed FMI in cambio della tranche di aiuti ad Atene, lo hanno reso noto fonti sindacali. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key. Resta molto cauto, lo state ascoltando, sulla crisi greca il presidente della BCE Mario Draghi, che da Francoforte tiene monitorata la situazione. Draghi ha usato parole che lasciano aperta la porta per un intervento della BCE nella crisi, se da un lato ha affermato che il trattato proibisce all'Eurotower di contribuire direttamente con propri fondi, cedendo i bond ellenici al fondo salva stati, dall'altro ha però affermato che può essere possibile fornire una parte dei propri utili provenienti dagli interessi sui bond di Atene in portafoglio agli stati membri dell'Eurozona, che potrebbero a loro volta girarli ad Atene sotto forma di aiuti. Il presidente della BCE ha confermato i tassi di interesse all'1%, negando una discussione su un cambio di politica a riguardo, e ha pronosticato un'inflazione sopra la soglia del 2% per diversi mesi in Europa, prima di calare sotto questo livello. Per Draghi le banche devono utilizzare i finanziamenti concessi da Francoforte. La BCE continuerà a sostenere il funzionamento del sistema creditizio e della finanza, ha concluso. Infine uno sguardo alla situazione economica, vi sono segni di stabilizzazione, ma rimangono rischi. E l'accordo sulla ristrutturazione del debito in Grecia non è riuscito però a scaldare i listini. Alcune prese di beneficio partite dagli Stati Uniti hanno colpito anche le piazze europee. Francoforte, Parigi e Londra hanno comunque chiuso in progresso di mezzo punto, mentre a Milano il FTSE MIB ha fatto segnare più 0,09%. Sentiamo. Chiusura prudente per i listini europei che continuano a monitorare l'evolversi della situazione greca. Francoforte, Parigi e Londra hanno guadagnato circa mezzo punto percentuale, mentre Milano ha chiuso piatta col FTSE MIB in leggera flessione a meno 0,09%. A Piazza Affari le vendite hanno colpito le banche, nonostante continui a restringersi lo spread fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. MPS ha ceduto il 5,1%, il Banco Popolare il 3,4% e la Popolare di Milano il 3,3%. Giù anche in pregiro, meno 2,7%, con il venir meno dell'appeal speculativo sul titolo, visto che si profila un'uscita della famiglia Benetton dalla società col gruppo Gavio, che diventerà quindi primo socio. Fra i titoli in rialzo, bene Fiat, più 2,9%, in scia i conti record presentati da Daimler, il costruttore del marchio Mercedes. Acquisti anche su Ferragamo, più 2,89%, con lustro ancora sugli scudi dopo i risultati oltre le attese di Hermès e Hugo Boss. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, il Sole 24 Ore. La Commissione europea torna a esprimere grave preoccupazione per la libertà dei media in Ungheria, preoccupazione che è basata sui fatti. Lo ha affermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario e responsabile per l'agenda digitale, Neelie Kroes, durante un dibattito all'Europarlamento. Nuova importante decisione in arrivo per il settore biologico. Gli uffici del commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos e i rappresentanti dell'amministrazione americana stanno finalizzando, secondo quanto si è appreso a Bruxelles, un accordo bilaterale per il riconoscimento reciproco negli scambi di prodotti bio.